A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Non la indosserà più nell'aula di un tribunale, ma dopo più di 40 anni quella toga è come se l'avesse cucita dentro, e ora che ha 78 anni compiuti è andato in pensione, non può che continuare a parlare della magistratura come della sua professione e del suo mondo. Anche per questo, quando gli hanno offerto di coordinare l'osservatorio sulle agromafie di Coldiretti ed Eurispes, subito ha accettato per restare ancora in prima fila. Lui che nei 46 anni con la toga ha attraversato il buio degli anni di piombo e poi la notte della Repubblica nella stagione delle stragi di mafia. Più volte bersaglio sia dei brigatisti che dei boss siciliani, da ultimo delle frange violente del movimento Notav. Amato o osteggiato dai suoi colleghi, è stato senza dubbio uno dei protagonisti della storia recente italiana e non solo giudiziaria. E ora che è andato in pensione, mette soprattutto in guardia dal rischio dei magistrati burocrati, lui che invece di sicuro non lo è stato mai e che per questo sono stato punito, riflette ora Giancarlo Caselli, in questa conversazione che dal processo Andreotti arriva fino alla sua prossima sfida contro le agromafie. Coordinare un osservatorio sulle agromafie. Ogni anno Eurispes e Coldiretti elaborano un rapporto sulle agromafie con dati desunti dalle principali attività di questo o quell'altro giudiziario, questa o quell'altra forza dell'ordine. Ne viene fuori un quadro molto utile per quanto riguarda i pericoli che possono esserci sul versante agroalimentare anche per effetto di infiltrazioni, inquinamenti, di crimine organizzato. Ecco la necessità di salvaguardare questa fonte di ricchezza, fonte di benessere per il nostro paese, ma salvaguardare tutto ciò anche dal punto di vista della salute dei cittadini. Un lavoro che ancora una volta serve per migliorare o di garantire la qualità della vita dei cittadini. È stato il mio lavoro in 46 anni di magistratura contro il terrorismo, contro la mafia, contro la corruzione, per la legalità in generale, avendo come obiettivo la qualità dei cittadini. La sicurezza, il benessere, quant'altro serve ai cittadini per vivere meglio. Si fa fatica ad immaginare un Giancarlo Caselli che per oltre 40 anni ha vissuto sempre in prima fila, diciamo che faccia anche i conti con il fatto di aver lasciato quella toga. Da un punto di vista anche personale, che effetto a lei ha fatto il suo ultimo giorno all'interno di quel palazzo di giustizia? Beh, subito nostalgia, un po' di prematura magari, perché non fai neanche in tempo ad elaborarla. Sono stati 46 anni molto intensi, molto forti, molto vissuti, conseguentemente smettere è un qualcosa che non è facile, è un qualcosa... Però non è facile, obiettivamente non è facile. Lo crediamo per chi appunto la conosce e sa anche quanta passione, quanta dedizione, quanto legame ci sia con quella toga che per oltre 40 anni l'ha accompagnata, come dicevamo, in passaggi cruciali, spesso drammatici, della storia italiana. Adesso li ripercorriamo, appunto la stagione più cupa della guerra di mafia in Sicilia, la stagione del terrorismo, le ultime vicende anche altrettanto insidiose a conclusione di questa lunga carriera. Procuratore, qual è un rammarico o un dispiacere particolare che lei porta con sé? Non motivo di rammarico, non motivo di rimpianto, se posso motivo di soddisfazione, di orgogliosa soddisfazione per il lavoro che siamo riusciti a fare, ciò che rivendico è quello di aver sempre lavorato in squadra. Di amarezza invece? Ai tempi dell'antiterrorismo, la fuga di Curcio dal carcere di Casale, anche se non era direttamente nostra competenza. Ai tempi dell'antimafia, la mancata sorveglianza, la mancata perquisizione del covo di Lina subito dopo il suo arresto, anche se in questo caso, come nel caso che ho citato in precedenza, l'ho detto molte volte, lo ripeto, la procura avrebbe voluto perquisire subito. I carabinieri del Rosso hanno portato argomenti che mi erano sembrati convincenti per sospendere, ritardare questa perquisizione. E quella, vabbè, è stata oggetto di un processo ad hoc su questo. E quel mancato incarico da procuratore nazionale antimafia è un'amarezza che Giancarlo Caselli porta ancora? Di questa impossibilità di partecipare al concorso che si è concluso con la nomina, e poteva concludersi con la nomina del sottoscritto come di qualunque altro magistrato, sia chiaro. Caselli, più che rammarico, prova orgoglio, perché ne sono assolutamente convinto che il discorso riguardava me naturalmente, ma riguardava me in quanto magistrato indipendente, riguardava l'indipendenza dei magistrati. Era un siluro sotto la linea di galleggiamento di coloro che volessero essere indipendenti, come credo avevo dimostrato di saper essere io. E solo in fondo parole del procuratore generale di Torino, Marcello Maddalena, ebbe a dire: questa legge contra persona colpisce Caselli, ma è soprattutto indirizzata contro i 9.000 magistrati, quanti noi siamo, che vogliono continuare ad essere indipendenti. Il rammarico, se rammarico c'è stato, è il silenzio di tanti, troppi, trasversale, in magistratura e fuori, fuori della magistratura, in ogni orientamento politico-culturale, come se fosse successa una cosa qualunque. No, sono state cambiate in corsa, a partita aperta. Il CSM come commissione aveva già votato 3 voti per il sottoscritto, 3 voti per il dottor Grasso. Si trattava di andare in plenum, 3-3, e di vedere come sarebbe finita. Beh, a partita aperta, a partita in corso, sono state cambiate le regole del gioco. In democrazia, cambiare le regole del gioco quando la partita è cominciata è una oscenità. Non protestare contro questa oscenità, starsene zitti zitti, magari approfittando della situazione, ecco, è stata una cosa che questa sì mi ha fatto male, questa. Quella è stata appunto una vicenda particolare che lei ha ricordato, ma che forse è stato anche un po' il segno, il sintomo, spesso anche delle tensioni, spesso anche forti, che si muovono all'interno del corpo della magistratura. Lei oggi come considera lo stato, diciamo, di salute della magistratura nel suo insieme? Spesso ci sono polemiche che coinvolgono ora l'uno ora l'altro magistrato, a volte per accusato di eccesso di esposizione, altre perché per, diciamo così, contese interne nell'uno o nell'altro palazzo di giustizia, e dall'altra parte poi lei invece ha anche messo in guardia dalla presenza di magistrati troppo burocrati. Come considera nel suo insieme la magistratura oggi italiana? Innanzitutto, per quanto riguarda la legge contro la mia persona, ancora una considerazione. Lei nella domanda ha parlato di tensioni all'interno della magistratura. Direi di no. Le tensioni erano tra una parte della magistratura, e il sottoscritto è stato individuato come capro espiatorio, quella indipendente, e una parte del mondo, soprattutto politico, ma non solo, che l'indipendenza della magistratura gli fa venire l'orticaria. Prova ne sia che a giustificazione pubblica della legge contro la mia persona è stato portato il processo contro il senatore Andreotti. Io dovevo pagare, e ho pagato, secondo loro, perché avevo osato processare Andreotti, dimenticando che Andreotti è stato dichiarato colpevole, certo, fino al 1980, fino in Cassazione. Che cosa dovevo pagare? Dovevo pagare la mia indipendenza, ripeto. Dovevo pagare il fatto di aver osato volare in alto dove l'empirio della politica non vorrebbe che nessuno si avventurasse. Secondo lei si può paragonare tutto quello che c'è stato intorno al processo del secolo, come fu ribattezzato il processo al senatore Andreotti, con tutto quello che sta avvenendo e che è avvenuto adesso intorno al processo sulla trattativa Stato-mafia? Ogni processo ha la sua storia. L'esito del processo Andreotti è stato nascosto o addirittura stravolto. Quando si parla di assoluzione, quando si parla di innocente perseguitato, si commettono degli strafalcioni tecnici inauditi, perché non c'è stata assoluzione ma affermazione di responsabilità, sostanziale condanna per un reato commesso ancorché prescritto. Parentesi, la prescrizione è rinunziabile. Non mi risulta che questo imputato abbia mai pensato a rinunziare. Certo. Altra parentesi, che non si possa parlare di assoluzione risulta evidente dal fatto che contro la sentenza della Corte d'Appello, poi confermata in Cassazione, hanno fatto ricorso anche i difensori del senatore Andreotti, e quindi lo stesso difensore Andreotti. E in quasi 50 anni di carriera non ho mai visto, mai, un imputato che ricorre contro la sua assoluzione. Se ricorre in Cassazione vuol dire che non c'è stata assoluzione, ma un'affermazione di responsabilità che non può tenersi sulle spalle, non può tollerare che sia stata pronunziata le sue. Certo. Dovrebbe essere oggetto quantomeno di discussione, di riflessione, perché un punto centrale, nevralgico della nostra storia politica nazionale è stato analizzato in primo grado, in secondo grado e in Cassazione, giungendo in Cassazione a conclusioni che sono sconvolgenti. Per anni un pezzo centrale della nostra politica ha avuto rapporti frequenti, proficui, con Cosa Nostra, con l'organizzazione criminale più pericolosa e temibile. Allora vogliamo discutere di questo? Vogliamo discutere su come si sia formato, almeno in parte formato, il consenso in alcuni anni della nostra storia? Se non discutiamo di questo, dei rapporti tra mafia e politica, facciamo finta di discutere. Ma le polemiche che in qualche modo ci sono state in questi ultimi, in quest'ultimo anno, intorno al processo sulla trattativa Stato-mafia, anche se in misura diversa, in contesti diversi, in qualche modo possono essere affiancate, secondo lei, a tutto quello che c'è stato intorno al processo Andreotti? La riflessione sul processo Andreotti è preliminare a qualunque riflessione sul problema mafia e politica fino alla trattativa. Voglio dire però che i colleghi che hanno intrapreso questa strada difficile, perfino labirintica, che prevede un cerchio particolare che riunisce insieme capi mafia, capi del ROS, capi della politica, uomini delle istituzioni, accomunati dallo stesso capo di imputazione. Tutto ciò denota nei colleghi che hanno intrapreso questa strada difficile, tortuosa, coraggio, spirito di servizio, senso del dovere, rispetto della legge, voglia di cercare la verità soltanto nell'interesse generale. Però sono colleghi che meritano grande rispetto, non il dileggio, non la disapprovazione a prioristica, a prescindere, che molte volte caratterizza le prese di posizione nei confronti di questo processo. La fuga di Peci e la mancata perquisizione del covo di Totò Riina, se deve indicare un rammarico nella sua lunga carriera, ora che è andato in pensione, Giancarlo Caselli, ex ormai procuratore di Torino, è a questi due episodi che pensa. Ma se c'è un rischio soprattutto che vede per il futuro dei suoi colleghi è quello di diventare solo burocrati del diritto. A ciascuno il suo. Si occupò di Brigate Rosse quando la P38 era spesso puntata contro le toghe e andò nelle insidie di Palermo quando la mafia aveva dichiarato guerra allo Stato e i magistrati li faceva saltare in aria. Più volte finito nel mirino, più volte salvato in extremis dalla sua scorta, per anni condannato ad una vita blindata, Giancarlo Caselli è stato uno dei protagonisti della storia d'Italia, il volto dell'accusa nel processo del secolo, quello a Giulio Andreotti, e per questo, come ha detto nella prima parte di A ciascuno il suo, è stato punito con una legge che definisce un'oscenità perché cambiò le regole e bloccò la sua corsa alla poltrona di procuratore nazionale antimafia, poi occupata da Pietro Grasso. E oggi che è andato in pensione, Caselli mette in guardia dai rischi di magistrati troppo cauti per non subire conseguenze della politica. Potrei ricordare, per cominciare, gli attentati, quelli documentati, e poi ce ne sono tanti altri di cui abbiamo saputo poco o nulla, ma sicuramente ce ne sono tanti altri. Gli attentati sicuri ai quali sono scampato, grazie alla mia scorta che mi ha salvato la vita, due volte ai tempi dell'antiterrorismo e due volte ai tempi dell'antimafia palermitana. Ma preferisco ricordare questi momenti drammatizzandoli un po', per esempio ricordando che per quanto riguarda la stagione dell'antiterrorismo, al termine di questa stagione, quando abbiamo avuto la fortuna di scoprire molti covi di Brigate Rosse di prima linea pieni zeppi di materiale, abbiamo trovato anche dei dossier che mi riguardavano, dove dossier significa inchieste molto particolareggiate sui movimenti miei e dei ragazzi di scorta per potermi colpire con attentati che erano stati programmati ormai quasi fino all'ultimo passaggio. Beh, sdrammatizzare per dire che il dossier delle Brigate Rosse era intitolato Casella Postale e quando gli ho chiesto conto e ragione, per così dire, a Patrizio Peci, mi sono sentito rispondere a me che gli chiedevo, scusi, ma scherzando, speravo qualcosa di più, Zorro, Robin Hood, Nembo Kid, invece soltanto Casella Postale mi sembrava riduttivo. E Peci, guardandomi con serenità, mi disse, no, dottore, non dimentichi che chi ha fatto l'inchiesta su di lei, e mi fece nome e cognome, era di professione postino, e quindi Casella Postale si spiega così, non c'è nessuna deminuzio. E invece Prima Linea aveva intestato il mio dossier Operazione Autostrade, scarsa fantasia, perché Caselli, autostrade, Caselli, ci vuole davvero poco. Giochi di parole per sdrammatizzare invece di una stagione drammatica in cui appunto lei è sfuggito a dagli attentati già organizzati contro la sua persona in quel momento in cui i magistrati cadevano sotto. Sono falliti soltanto per fortuna, per combinazione, ma soprattutto perché la mia scorta era efficiente, attenta, e questo li ha preoccupati e hanno dovuto rinviare uno dei due attentati proprio per rinforzare il comando che avrebbe dovuto attaccare me e la mia scorta, essendo la scorta più efficiente di come prima di studiare la situazione si aspettavano. Come spesso purtroppo invece non è successo ad altri suoi colleghi che invece sono caduti sotto il fuoco, diciamo, terrorista. Ecco, procuratore, voi a Torino, lei in stagioni più recenti si è occupato e avete contestato anche l'aggravante del terrorismo nelle vicende degli assalti ai cantieri Notav. Ecco, al di là della questione specifica, lei ha visto in stagioni completamente diverse e vede, diciamo, un pericolo concreto di degenerazione ulteriore, diciamo, anche intorno a questi movimenti Notav che sono diventati un po' una sigla che fa confluire, diciamo, realtà e anime completamente diverse. Ci sono pericoli concreti di ulteriore degenerazione? Pericoli concreti non saprei dire. I magistrati sono notai del passato, registrano quel che è già successo, ricostruiscono i fatti, cercano se ci sono responsabilità individuali ricollegabili a quei fatti, ma è sempre passato. E però azzardando una qualche previsione, ma azzardando, basata però su analisi, insomma, chi come lei ha così tanta esperienza, diciamo. Certo, allora direi che le esperienze che vengono in mente, gli anni storici, per così dire, del terrorismo, sono esperienze non ripetibili, niente si ripete allo stesso modo. E mi auguro proprio, io ho la ferma convinzione allo stato degli atti, oggi come oggi, che non c'è nulla ancora che possa far presagire, temere il ritorno di qualcosa di simile a ciò che è avvenuto in quegli anni. Però, lei lo ha detto, in Val di Susa, intorno al cantiere, una minoranza di valligiani, non raccontiamo storie, non è la valle, è una minoranza di valligiani, per degli obiettivi assolutamente legittimi, che riguardano i costi, l'utilità, l'impatto ambientale dell'opera, e però in democrazia obiettivi come questi devono essere perseguiti con le armi della democrazia, non con la violenza. Una minoranza di valligiani ha accettato, adottato, ospitato delle persone estranee alla valle, molte persone estranee alla valle, anche stranieri, non cittadini italiani, che praticano sistematicamente violenza e hanno fatto del cantiere una specie di laboratorio. Ecco, la pratica sistematica della violenza ha di per sé stessa connotati di diffusività che non possono non preoccupare. Non ci sarà nulla come c'è stato negli anni di piombo, ne sono convinto, è vero che questa pratica di violenza possa in qualche modo diffondersi, è quantomeno una ipotesi che non è consentito di scartare, di escludere a priori, va tenuta presente, ed è ciò che non tengono presente invece quegli intellettuali che invece di condannare la violenza, invece di prendere le distanze, invece di dire che non si fanno certe cose, non si commettono reati, soprattutto se violenti, senza se e senza ma, balbettano qualche distinguo poco convincente che sicuramente non aiuta a venire a capo di questo. Ecco, lei fa riferimento tra gli altri anche alla vicenda di un testo scritto da Henry De Luca che è stato anche poi, diciamo, anche diffuso all'interno di una mailing list di magistrati che ha provocato anche il suo, diciamo, forte e netto disappunto con l'uscita dalla sua corrente di Magistratura Democratica. Ecco, procuratore, l'ultimo. No, questa volta devo. Quel testo pubblicato sulla agenda di Magistratura Democratica riguardava gli anni di piombo, esclusivamente la lotta armata, il Notav non c'entrava niente. È vero, però lo stesso scrittore poi Senso, sì, che poi De Luca abbia anche detto cose sui sabotaggi del Tav, sulla sua partecipazione ai sabotaggi stessi e un altro paio di maniche. Certo, ho unito due... Anche in MD molti lo pensano, per cui... No. L'ultima cosa che le chiedo, procuratore, è se lei in qualche modo vede un suo, diciamo così, ipotetico erede, delfino tra i magistrati italiani che, diciamo, che oggi sono impegnati. Io sono molto compreso di me, sono convinto di essere bravo, bello, buono e giusto. Scherzando, sono molto presuntuoso, però fino al punto di indicare un delfino, un erede, non ci arrivo. Piuttosto c'è stata una sua domanda fondamentale, secondo me, alla quale non ho risposto, ed è la magistratura oggi. Esatto. Io credo che la magistratura oggi subisca le conseguenze di un ventennio, sostanzialmente vent'anni, lasciamo perdere la parola ventennio, vent'anni di attacco, di aggressione, che però si è snodata lungo questi passaggi. Ci sono problemi che la magistratura è chiamata a risolvere perché la politica non li vuole risolvere o non li sa risolvere. Successo per il terrorismo, per le stragi, per la mafia, per la corruzione, per la sicurezza sui posti di lavoro, per la tutela dell'ambiente, per la tutela della salute dei cittadini. È tutto delegato alle forze dell'ordine e alla magistratura con la politica che sostanzialmente se li interessa. Pensiamo alla corruzione, sono vent'anni che ne parliamo, in questi vent'anni non sono aumentati i controlli e le leggi contro la corruzione nuove sono state davvero poca, pochissima certo. Cosa. Tutto delegato alla magistratura, ma con un'asticella. Attenta magistratura, se superi questa asticella, che non è scritta da nessuna parte, ma c'è, se cioè ti occupi di certi interessi, ci sarà la reazione contro la magistratura che straripa, contro la magistratura che deborda, contro la magistratura che addirittura vorrebbe un golpe giudiziario, il governo dei giudici e via seguitando. Tutte fole, per usare un eufemismo, che però hanno fatto del male alla magistratura. Ecco che, essendo il nostro mestiere, dico ancora nostro mestiere, essendo il mestiere dei magistrati impregnato di scelta, non c'è atto anche il più piccolo del magistrato che non sia la scelta tra due opzioni, almeno due opzioni diverse. Ecco che magari inconsapevolmente il magistrato sarà portato, dopo vent'anni di polemiche molte volte pretestuose, di attacchi ingiusti, a scegliere o a preferire l'opzione che meno lo espone a rischi di polemiche, di attacchi, di assalti ingiusti. Ecco, ma ora la tendenza a ricoprire un ruolo più burocratico che altro di cui lei ha parlato nella sua domanda. Ecco, ma secondo lei in questo momento, anche in qualche modo con la conclusione di una parte processuale che ha riguardato l'ex premier Berlusconi, la sua decadenza, insomma siamo in una fase anche politica diversa, in qualche modo possono cambiare anche, diciamo, i rapporti tra politica e magistratura, in qualche modo questa la fase, l'ultima chiamata per migliorare questi rapporti? Io sono assolutamente convinto, non lo dico retoricamente, che la stragrande maggioranza dei magistrati continua a tenere la posizione, cioè a fare il suo dovere nel rispetto della Costituzione e della legge al servizio della collettività, interpretando il proprio ruolo secondo questi parametri, non con sentimenti, chiamiamoli così, burocratici. Problemi però ce ne sono e siamo ad una svolta di nuovo, ecco, si sta cambiando qualcosa nella politica, sicuramente si mette la mano anche a una riforma della giustizia, che sia una riforma della giustizia che la faccia funzionare meglio, non una riforma dei giudici che ne diminuisca l'indipendenza, perché l'indipendenza della magistratura non è un patrimonio della casta dei magistrati, ma un patrimonio dei cittadini, perché se diminuisce l'indipendenza dei magistrati vuol dire inesorabilmente, automaticamente, che ci sarà qualcuno che ai magistrati può dare ordini, direttive, orientamenti, e quindi che i magistrati per legge dovranno fare la faccia feroce a qualcuno e gli occhi dolci a qualcun altro, fine anche solo della speranza, e dico speranza, della uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Ecco perché l'indipendenza della magistratura è un patrimonio dei cittadini, perché su questa indipendenza si fonda la loro speranza che prima o poi ci sia più uguaglianza di tutti di fronte alla legge. Per riascoltare tutte le puntate di A Ciascuno il Suo, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, ricordate Storiacce, e sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.